Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui alla vigilia di Natale. Eccoci Oscar. A poche ore dalla nascita del bambinello. Ma bisogna correggere quest'anno. Tutti scrivere finalmente, diranno anche nelle chiese. È già nato a Rignano un po' di anni fa. Il No. Ah, non dici che dai, non è questa stasera no. L'annuncio? Ma credevo. No. Ci dicono, fateci sto saluto a me e tutti presenti in Libano in questo periodo. Va bene, salutiamo tutti quelli che ci ascoltano dal Libano. Come no? Ma perché c'è la Torrenza? No, siamo se. Anche oggi pomeriggio penso faccio una trasmissione proprio parlando con alcuni impegnati in un progetto di sostegno per far studiare i bambini siriani che sono lì profughi, perché la scuola pubblica libanese non le può far studiare. E allora ci colleghiamo esattamente con volontari che fanno questo. Vedi come tutto torna. 300 tutto euro torna. L'anno, poi darò il numero di conto corrente postale. Bastano, pensateci, perché col 300 euro l'anno si fa studiare per un anno un bambino siriano che altrimenti salta la scuola. Allora, 800 24 00 24. Intanto io, sai che Oscar, da tre giorni pigliavo amabilmente in giro i romani dicendo arriva Tronca a bloccarvi il traffico. E invece porca miseria, non l'avessi mai fatto. Tronca fa scuola. Non l'avessi mai fatto, ha bloccato il traffico di Milano però dal 28 al 30 dicembre. C'è già gente infuriata, se volete chiamarci. Ma poi vogliamo dire tutto. Ma quando è che ci si rende conto che in realtà, voglio dire, quando non piove, quindi le particelle, il particolato fisico diventa più denso nell'atmosfera. Ma in realtà cosa c'entra il traffico? C'entra secondo me, ma non sono un esperto in abbastanza in minima parte, cioè, Non so, peggio tutti gli le caldaie che non funzionano, tutti gli studi dicono, oramai gli impianti industriali delle città non ci sono più, questo da 15 anni più o meno è così. Uno, due, il livello delle emissioni del parco auto, per quanto sempre mediamente troppo vecchio, circolante, ma comunque ha emissioni molto più basse, il problema sono gli scaldamenti, teniamo la gente al freddo. Sì, esatto, il problema è che non potendo chiudere tutte le caldaie, però almeno, visto che ci sono le leggi, ma in Italia abbiamo le leggi per tutto, ma entri nei, non invece so, nei che centri a 50 commerciali, gradi, ci sono 40 gradi, ma anche nelle case. Ma poi, voglio dire, un po' di sano freddo, certo per i bambini andrebbe bene, certo per i vecchi coniugi riscalderebbe il sesso. Dopo tanti anni di noia si potrebbe utilizzare come metodo per rinvigorire un po' la coppia. Vabbè, no, al di là di tutto, però bloccare il traffico è proprio una cosa abbastanza senza senso. Bloccarlo 6 ore per 3 giorni. Cioè, ma dai, appunto, dalle 10 no, per come 8 complicare ore, la vita. Dalle ma sei l'arbitrarietà e la discrezionalità dello Stato che può tutto, e l'arbitrarietà di chi decide di inaugurare la variante di valico senza preavviso e con i cantieri aperti nei tratti precedenti e fa 12 km di coda. Però su questo devo dire, la variante di valico, io non sono, anzi ti faccio sentire Renzi, che è così il uno a caso, il bambino di Rignano, uno il bambinello di Rignano, te lo faccio sentire ieri, dice. È arrivato il giorno in cui l'Italia manda in soffitta i professionisti del tanto non ce la faremo mai, manda in soffitta i professionisti del qui non si finisce niente. Vabbè, ma è chiaro che è un po' di slogan, no? Però io dico, i professionisti del piagnisteo, certo, io... cioè non bisogna dire che ci abbiamo messo 30 anni, ma no, certo, non che ci bisogna dire dirlo. Che è aumentato il costo del 400%, se vuoi, cioè un paese nel quale esiste solo la verità ufficiale. No, se vuoi si può dire, come scrive il giornale, anche i costruttori edili che dicono no, ci pagano ancora 5 mesi se quando va bene, no? Si possono dire tutte queste cose, però effettivamente, cioè, sarà con tutto quel casino che è successo, 30 anni, costi aumentati, è una buona notizia comunque, almeno che adesso ma l'Italia si accorcia. Ma chi lo nega? Ecco. Il problema non è negare le buone notizie, è affermare che non bisogna criticare. Questo è la cosa sulla quale non sono d'accordo. Ma non che la dica il presidente del consiglio del PD, ma che la dica chiunque politico. È un tentativo improprio di confondere la realtà oggettiva con la propaganda. E questo fatto non va bene. Mi dispiace dire che i media, però, con i governi di una parte, sono molto più preoccupati proclivi che con i governi dell'altro. Io in genere i media vedo che qualsiasi governo c'è questa fase di prima di scetticismo subito, poi l'innamoramento generalmente poi c'è l'innamoramento dura lungo, però perché ti ripeto, dura se arriva che capisci che quella persona sta al potere. Può essere è l'innamoramento verso il potere. Però non puoi paragonare, cioè il pregiudizio che c'è verso una parte non c'è verso l'altra. Cioè, ripeto, se arriva una lettera dell'Unione Europea che smentisce radicalmente quello che dicono il governo e Banca Italia, cioè ci ha imposto tutto l'Unione Europea, lo smentisce radicalmente. Adesso non c'è il tempo per approfondire tecnicamente, però è così. Oggi voi leggete Repubblica e Corriere della Sera, Repubblica e Corriere della Sera si sdraiano sulla tesi del governo dicendo l'imposizione europea. Quale imposizione? L'Unione Europea dice, l'abbiamo già detto, se volete usare il fondo depositi basta farlo in modo che non sia un aiuto di Stato e siamo qui per concordare con però, voi. Su ma quello, dai. Oscar, io dico, gli italiani, i nostri ascoltatori sono molto intelligenti, i nostri ascoltatori sono più d'accordo. Intelligenti addirittura della media degli italiani. No, questo poi... No, la lettera che è pubblicata sul Sole 24 Ore oggi a pagina 3, pagina 5, con tutte anche le parti in neretto, uno se la legge si fa una questo valutazione. Non assolve però i giornali che si mettono in ginocchio, chiaro. No, perché questo sicuramente. Comunque, insomma, tu tra l'altro mi ha stupito il sindaco di San Vitale, No, il sindaco di San Vitaliano anche ieri l'ho letto, cioè, che vieta le pizze margherite e tutti i prodotti da forno per abbassare l'inquinamento, c'è anche quello. Ecco, forse è più intelligente quello di bloccare le auto. Tutta la pizza margherita San Vitaliano è abolita. Ma non possiamo abolire delle pratiche molto più dannose alla salute? Per esempio, questi filmati dell'Agenzia delle Entrate, che stile le Iene, PEG e tax alla scoperta del fisco. Ah, cioè ogni anno utilizzano questi personaggi. Questi due con gli occhiali neri che fanno delle battute che non fanno ridere neanche i morti, con lo stile delle Iene, e raccontano che il loro mestiere sarebbe quello di acchiappare i ladri. I ladri a nome dello Stato, qualcuno si pretende, cioè, di dare del ladro a qualcun evasori? Altro. Beh, è ovvio, da secondo l'Agenzia delle Entrate. Sì. Guarda che ti leggo dall'intervista di Gian Roberto Casaleggio oggi sul Corriere della Sera. Dice: tra i punti su cui battere per riformare l'Italia c'è proprio quello: etica, lotta dura all'evasione, ma contemporaneamente abbassare le tasse. È un imprenditore, quindi sa cosa vuol dire l'alta tassazione. E comunque, insomma, questo è uno dei punti: è lotta alla corruzione dura e lotta dura all'evasione fiscale. Insieme alla diminuzione. Io penso che ho capito il senso di questa intervista solo per una cosa: l'ultima riga in cui dice si rimangia quello che c'è scritto in questo suo libro. Dice di sono provocazioni deliranti, quelle che ha dalla detto chiusura delle macellerie, delle tabaccherie, al fatto la chiusura dei parrucchieri, anche che si capisce tutto se tu vedi Casaleggio. Ma lui ha deciso di farne a meno. Però ecco, l'intervista secondo me si giustifica solo per quello: rassicurare il pubblico degli elettori in crescita, cioè, ma no, quelle sono stronzate che ho scritto. Pensa che invece io sono rimasto colpito da un'altra frase che ha detto su Di Maio. Sai che tra lui e Di Maio c'è, e invece quando ha detto Di Maio gode, lei si rivede in lui, però lui risponde così: un po' sì, ma io alla mia età mi occupavo di altro, facevo il progettista software all'Olivetti. Quindi lui è più bravo di me, che è una maniera per dire: da una parte io so cose che lui non ha mai studiato, no, attenzione, ma quando... secondo te vuol dire che Di Maio è più bravo? Io facevo il progettista, secondo me vuol dire io lavoravo alla sua età. Io lavoravo già all'Olivetti, eccetera eccetera. Di Maio. Dall'altra è costretto ad ammettere per la prima volta implicitamente che Di Maio fa molto bene i sondaggi, quindi cioè, è una di queste ammissioni a mezza bocca. Mentre con la mano destra io ti ho un pugnale in mano dietro la tua spalla, con la sinistra ti abbraccio e poi ti stringo forte, ti stringo. Vieni a me fratello. Adesso stiamo esagerando, però insomma anche secondo me quella frase è una delle chiavi. Comunque Casaleggio dice: vogliamo vincere a Roma. Io sono ancora convinto che il Movimento 5 Stelle sotto qualcuno spera di fare una bella onorevole sconfitta, perché per poi evitare prove impegnative Roma, prima delle elezioni nazionali, ecco. Governare Roma, poi auguri, ecco. No, questo bisogna dirlo, bisogna dirlo. Cioè, però tra malgoverno papale e repubblicano è una bella gara da un po' di tempo a Roma. È una bella gara, sì. Allora ci chiama Umberto da Milano, pronto immagino per il provvedimento del traffico bloccato. Lei è già bloccato? È già bloccato. No. Buongiorno a tutti, no, stamattina ancora no. È dal 28. Diciamo. No, ieri tornavo da Milano e alle 18 c'era la guglia della Torre Unicredit che era bella piena di nebbia, pensavo io. Invece mi rendo conto che è l'effetto dello smog. È l'effetto dello smog. Detto ciò, il provvedimento del blocco del traffico, l'unico scopo che ha è quello di togliere la possibile denuncia agli amministratori perché non tutelano la salute pubblica. Esatto. Punto. Secondo me lei coglie un punto. Beh, interessante. Lei coglie un punto. Ci mettiamo a norma, dimostriamo che noi qualcosa abbiamo tentato di fare. Se qualche associazione di consumatori dovesse pensare di fare ricorso pubblico, ma basta che entra in un qualsiasi edificio pubblico e rileva la temperatura, che secondo legge, se non sbaglio, non deve superare i 20 gradi, 22, adesso non lo so qual è la legge, ma così nei condomini. E venga a casa mia un'associazione di consumatori, perché siccome bisogna far star bene e al caldo la vecchietta al quinto piano, per dire, bisogna tenere a pompa il riscaldamento centralizzato, così quelli al primo e al secondo grado si fanno gratinati al forno. Poi anche questo non è sano, perché anche le persone più avanti con gli anni, più stai caldi, più dal punto di vista della circolazione, insomma. Ma pensa anche lo spreco, cioè ci sono persone che arrivano a casa mia in pieno inverno e dicono: possiamo aprire un po' la finestra? Ma come si fa caldo? D'altronde è centralizzato, che devi fare? A parte che io sono contrario anche all'impianto di riscaldamento centralizzato, tutto ciò che è collettivo non efficiente. Lo so, ma qui bisognerebbe ristrutturare. Certo. Bisognerebbe ristrutturare. Ricordiamo però a chi è in ascolto che il super bonus per l'impronta ecologica ambientale delle emissioni edilizio, questo sarà il terzo anno che è in vigore, quindi è un incentivone. Quando non c'erano gli incentivi ero il primo a criticare, ma se ci sono quelli per fare questi lavori, certo, utilizziamoli. Tra l'altro volevo chiederti questa cosa, Oscar, e anche gli ascoltatori. Hai visto il foglio? Allora, se la sinistra è un po' in difficoltà, tu dici Renzi, però in realtà la sinistra in questo momento è stabilmente al governo, no, rispetto alla destra comunque, esatto, se non esiste il Movimento 5 Stelle comunque dai sondaggi è dato in salute, Salvini in salute è dato in abbastanza, esatto, salute salita, Salvini anche è dato abbastanza in salute, anzi molto in salute come Lega. Il Foglio lancia questa iniziativa, un leader per la destra, @ilfoglio.it, cioè facciamo il casting, siamo a questi livelli, perché c'è il deserto dopo Berlusconi. Faccio i miei auguri a tutte le iniziative editoriali che pensano di sostituirsi a una destra politica, non ci credo per definizione. Non ci credo. È una maniera per tentare di pescare in un pubblico, tentare di dare loro una prospettiva, ma non, perché le prospettive saranno bloccate al fatto che c'è qualcuno che ancora fa i filmati di Buon Natale dicendo torno in politica. Mi ha molto colpito che la stessa Mediaset ieri ne aveva mandati in onda non più di pochissimi secondi ai telegiornali della sera. Sì, che mi sta simpatico. Il messaggio è un di quello natalizio, sì. Però è incredibile come la politica in poco tempo cancelli tutto. Tempo la crisi Berlusconi inizia nel 2010, siamo al 2015, dai su, inizia il 2016. Adesso non vorrei dirti poco tempo, sono cosa passate, anni e anni di declino come parabola. Mi chiedono se ho le valvole. No, non ho le valvole, ho i pannelli sotto il pavimento. Poi volete altri particolari? No, per le valvole per il riscaldamento. Se volete altri particolari di casa, non lo so. No, ma questi sono sicuramente degli amici del fisco che vogliono sapere. Perché vi dicono risparmia chiudendo le valvole. No, non ho le valvole. Peggy tax, queste non due. Ho i termosifoni. Sono quei filmati, sono raccapriccianti. I soldi dei contribuenti usati per questo. Io non ci posso dormire la notte proprio, perché io ho scadenze fiscali anche il 28. Cose, quindi. L'acconto IVA. Racconto io, è una sberla clamorosa. Allora, vabbè, insomma, se è una sberla vuol dire che almeno hai fatturato. È l'idea dell'acconto che a me fa girare, perché è un'altra pretesa dello Stato. Vabbè, lo Stato li vuole prima, però te li dà quando vuole poi. Vabbè, lo Stato è lo Stato, sai, l'età se le tua. l'età. Gabriella ci chiama da Roma, È pronta a essere bloccata da Tronca. Buongiorno Gabriella. Buongiorno, sì, già pronta. E come dicevo al centralinista, il problema del traffico di Roma è quello che è da una vita. E dicevo che primo, bloccare il traffico in questo modo, o con le targhe alterne o anche con blocco totale, se non si risolve intanto a monte il problema del traffico pubblico, anche l'idea di non far pagare il biglietto, il problema non è il costo, è veramente, gli autobus già inquinano per conto loro, che anche quelli dovrebbero seguire le stesse norme. Sì. Arrivano, io abito a Monte Mario, per scendere a valle, perché non dimentichiamoci che Roma sta a sette colli, non è percorribile così facilmente andando su e giù. Di autobus ce n'erano 3-4 linee, adesso ce n'è una solo là. Insomma, lei dice, se bloccano il traffico è un disastro. Ecco, quindi gli autobus inquinano, ce ne sono di rari, affollatissimi, con delle distanze come quelle di Roma. Se lei sente, io in macchina ci metto un quarto d'ora, con i mezzi ne devo prendere tre, ci metto un'ora e mezza. Vabbè, Gabriella, ecco. e non è ancora arrivato il provvedimento del blocco del traffico. Pensa, Oscar, quando e se arriverà a Roma. La gente questo sarà a proposito comunque della difficoltà di prendere Roma, vincere le elezioni e pensare di riuscire a risolvere problemi di questa portata. È come no. Diamo gli Oscar di oggi. Io, eccolo qua l'articolo. And the Oscar goes to... Io lo voglio dare a Sergio Rizzo, che sul Corriere della Sera racconta la storia del mille proroghe. Io non lo sapevo, tra l'altro. Si chiama così da un articolo, dice, della Stampa del 93. Quando scrisse nel governo è entrato il ministro della proroga. È bellissima questa cosa. Cioè, lo Stato proroga alcune scadenze, alcune cose che non riesce a rispettare. Così, non... E la proroga da eccezionale per lo Stato diventa regolare. Ma perché mille proroghe? Perché sono tante. Questo è il concetto. La verità è che si mettono tutti in questo provvidentuccio tra Natale e Capodanno, perché la gente ha la mente altrove, quindi è meno attenta a capire quante sgrindellate al fondo schiena gli si riserva. Anche perché ci sono dei provvedimenti, racconta Sergio Rizzo, ovviamente sarebbe da leggerlo, prima l'ho letto in rassegna stampa, riferimenti a commi, leggi, non si capisce nulla, pensate a mangiare al cotichino, cari italiani, e dateci i soldi, soldi. 22 anni di scambi e favori col mille proroghe. C'è la mitica proroga annuale per i super cassi integrati all'Italia, per esempio. Oggi Stella ne scrive. Ci sono questi 152 sopra i 10.000 euro mensili di cassa integrazione che il resto degli italiani non vede, e tantomeno li vede per 8 anni. E ce ne sono anche due che hanno il trattamento mensile sopra i 30.000 euro. 30.000, capisci? Pensa che io conosco gente che lavora nell'Italia attuale, invece, cioè, fanno una vita. Dopo c'è stata una bella discontinuità. Ma pensa a essere cassi integrati da 8 anni rispetto a tutti gli italiani a 30.000 euro. Beh, è un bel lavoro. È un bel lavoro. 30.000 euro al mese? Di quei 10.000 sono 10.000 persone super cassa integrati all'Italia, fuori dal vincolo temporale e fuori dal limite massimo che c'è per ogni italiano cassa integrato. E ce ne sono di questi 10.000, 152 oltre 10.000, e poi ce ne sono due da più di 30.000 al mese. Che bello sarebbe conoscerne i nomi, invitarli, farci due chiacchiere. Ma perché nella vita, non poco, quando eravamo più giovani, non abbiamo conosciuto la figlia di uno di questi, ci mettevamo a posto. Vabbè. Il tuo Oscar è questo certo. No, ma io devo dire, mi associo su tutta la linea, perché il mille proroghe per me, prima dell'acconto IVA del 28 dicembre ogni anno, mi ricorda sempre che, contribuente italiano, ricordati che devi morire, in altre parole, perché è un classico, insieme adesso al prezzo del petrolio, che dici, ma come è sceso del 30% ulteriore, ma invece la benzina non scende. E ragazzi, la benzina è aumentato da 70 centesimi a 99 centesimi sempre, e l'accisa è sul totale che pagate, e quindi mi dispiace, sono veramente d'accordo con te. Allora, noi dopo la pubblicità avremo ospite Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano Cucchi, una storia che tutti ricordate. Io, sai Oscar, che già immagino le persone che ci scriveranno, che ma perché vi occupate ancora? Insistete. Esatto, di una persona, era un drogato, no? Occuparsi di anche singole storie, tra l'altro con una persona che ne ha fatta una causa della propria vita, cioè cercare di capire chi e come mai è morto suo fratello, quando era in custodia dello Stato, occuparsi di queste singole persone mi sembra di poter dire vuol dire occuparsi anche dei problemi, se ci sono, di un intero paese o no, la vicenda singole. Giudiziaria tortuosa e difficile, come si vede nei suoi passaggi, attraverso la quale, grazie all'impegno di Ilaria e dei familiari, dei Cucchi, è un grande contributo alla chiarezza, nel senso che non si può, secondo me, vivere in un paese nel quale non solo è ammissibile, ma sia tollerabile l'incertezza giudiziaria e le coperture se questo, quello, corpo dello Stato abbiano avuto un atteggiamento nei confronti di un indagato, arrestato, detenuto, tale da fargli perdere la vita. Ecco, questo è il punto di fondo, e quindi secondo me Ilaria Cucchi e il resto dei suoi familiari sono da questo punto di vista impegnati nella costruzione non solo di una chiarezza dovuta dal loro punto di vista giustissimamente alla morte del familiare, ma fanno un favore a tutti di cui essere grati. E tra poco parleremo con lei e col suo avvocato. State con noi. Allora, caro Oscar, anche alla vigilia di Natale è fatto arrabbiare un nostro ascoltatore. Sì, no? Perché c'è un ascoltatore che ci manda un sms e dice: ma come, se tutti i lavoratori dipendenti pagano le tasse mese per mese, perché lei non dovrebbe pagare l'acconto? Ecco, allora, caro ascoltatore lavoratore dipendente, vede che lo Stato è così abile che non la fa capire e lei si arrabbia. Lei, mese per mese, come tutti i lavoratori dipendenti, cioè avete l'acconto, la ritenuta alla fonte, ma sul reddito che nel frattempo viene corrisposto. Noi lavoratori autonomi, con l'acconto, lo Stato ci chiede di pagare prima su una stima di reddito da realizzare l'anno prossimo, che noi non abbiamo né fatturato né tantomeno abbiamo visto se determinarsi se incassato. Se non si fattura, poi ma viene scontato, capito? Chiaramente, però intanto uno c'è deve una pagare differenza di fondo che è del tutto ingiusta, per questo uno si arrabbia, mica perché dice non le vuole pagare. E a voi vi trattengono, ma sul reddito mentre ve lo danno. A noi prima di fatturarlo e lo prima chiedono, di vederlo incassato. Lo chiedono. Allora, come abbiamo anticipato, vogliamo salutare Ilaria Cucchi, che è con noi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Così come il suo legale, il legale della famiglia, Fabio Anselmo. Avvocato Anselmo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Allora, dicevamo con Oscar Giannino prima di, della pubblicità, che raccontare la storia di suo fratello e raccontare la storia, gli sforzi che voi state facendo in famiglia da anni per cercare di sapere la verità di inchiesta dopo inchiesta, processo dopo processo, vuol dire occuparsi, Oscar diceva, fare un favore a tutto il paese, perché laddove c'è chiarezza, trasparenza, vuol dire fare una battaglia che è più grande di quella già immensa di cercare di capire che cosa è successo a suo fratello. Lei immagino condivida questa posizione, faccia capire a tutti coloro che dicono: ma insomma, ancora vi occupate di questa vicenda. Che risponde lei, Ilaria? Guardi, io ricordo 6 anni fa, ricordo il punto dal quale siamo partiti, ricordo e non dimenticherò mai il momento in cui siamo venuti tramite un decreto di autopsia a conoscenza della morte di Stefano. In quel momento la mia vita chiaramente è cambiata per sempre. E io in quei 6 giorni di detenzione di mio fratello non potevo immaginare, ma nemmeno nel peggiore degli incubi, quello che gli stava accadendo. In quel momento ho avuto chiaro quello che mi aspettava da quel momento in poi. Io ricordo una cosa, un sogno che fece un mio amico, nel quale Stefano gli disse: di a mia sorella che sto bene ora, dille di andare avanti, dille che quello che farà per me forse non servirà per me ma servirà per molti altri. Io in quel momento non potevo capire il significato di quelle parole. Oggi sono passati 6 anni, ho alle spalle una lunghissima battaglia ed oggi comprendo perfettamente il senso di quelle parole, l'importanza di non smettere mai di raccontare queste storie e di raccontare anche gli scenari che si aprono un istante dopo quelle morti. Tra l'altro, ieri sul Corriere della Sera si racconta di un nuovo testimone, una persona che era carcerata, che ha detto, chiesi a Stefano che è successo, visto che è arrivato malconcio, e in pratica la versione era, secondo questo testimone, gli avevano proposto di fare in qualche modo il confidente, la spia, i carabinieri, e lui ha detto di no e per questo è stato picchiato. Cioè, voi state arrivando, dal vostro punto di vista, a una verità sempre più circoscritta di quello che è successo, oppure no, alle responsabilità, al di là di quelle che sono poi le sentenze, i tribunali? Sì. È una verità drammatica. Quello che scopro in questi giorni, in questi momenti, è che quella notte, mentre avveniva quel violentissimo pestaggio a mio fratello, c'era qualcuno che si divertiva e che oggi, a distanza di 6 anni, sapendo che è morto e sapendo in quali condizioni è morto, ancora ne parla ridendo e ricordando di quanto si sono divertiti. Questo è drammatico. Oggi è Natale e io mi chiedo in che mondo viviamo. In che mondo viviamo? Poi dal punto di vista processuale, avvocato Anselmo, ci aiuti, è andata in modo diverso, anche se i processi non sono finiti fino a questo punto di vista. Non è che c'è stato l'errore di processare le persone sbagliate, a questo punto sì, bisogna dire di sì. Beh sì, chiaramente la decisione sofferta davanti alla Corte di Cassazione che abbiamo preso la settimana scorsa è figlia proprio di questo. Ma vede, il problema noi l'avevamo sollevato per tempo. Vi era stato subito dopo la morte di Stefano un intervento molto deciso da parte dell'allora ministro della difesa, il quale affermava e ammoniva tutto il popolo italiano sul fatto che per quanto riguarda la responsabilità di quello che era accaduto a Stefano Cucchi, che era morto da poco, i carabinieri non c'entravano. Purtroppo che non si capisce a che titolo un'autorità politica, non avendo gli elementi, sì, di fronte a un'autorità politica per il ministro della difesa, ecco, quindi l'arma dei carabinieri, si capisce solo che è una copertura politica. E con tutto rispetto, io non me l'aspetto a favore, cioè io mi aspetto che le forze dell'ordine e di sicurezza dello Stato a maggior ragione non abbiano nulla da temere a essere sottoposti in giudizio nell'accertamento dell'ipotesi di morte di qualcuno. Invece dubito per esperienza quando vedo che vengono premuniti di tutele prima che si facciano le indagini e si scopra la verità processuale, vuol dire che c'è quello che si chiama un cover up. E infatti secondo me siamo in presenza proprio di una cosa di questo genere, da quello che ho capito. Io ricordo queste dichiarazioni di scienza assolutorie, sono d'accordo assolutamente con il signor Giannino, io ricordo il processo Aldrovandi, il questore di Ferrara intervenì immediatamente nei primi giorni dicendo che aveva fatto l'inchiesta interna e i poliziotti coinvolti assolutamente avevano fatto il loro dovere. Suonava un po' come la classica excusatio non petita, cioè che diventa... Questo è un processo che è stato reso molto molto difficile. In questi 6 anni noi siamo rimasti da soli in questo processo, purtroppo. Facevamo le Cassandre, ma quello che noi temevamo si è puntualmente realizzato. Devo dire che invece adesso non lo siamo più. Devo dire che adesso la Procura di Roma ha fatto un'inchiesta meravigliosa, ha fatto un'inchiesta che offre uno spaccato terribile. Io da una parte voglio subito ringraziare la squadra mobile di Roma, che ha fatto un'indagine veramente degna di merito, di incondizionato. E devo dire che però lo spaccato di questi carabinieri che utilizzano i telefoni ufficiali, fra virgolette, sapendo di essere intercettati per infangare il nome della famiglia e per professare la loro innocenza e per proprio infangare il nome di Stefano, della famiglia, con conversazioni veramente terribili. Sapendo di essere intercettati, non lo dico io, lo dicono i magistrati. Dall'altra parte utilizzano tutta una serie di cellulari anonimi, segreti, per raccontare la loro verità. Ed è una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde per quanto riguarda l'atteggiamento del processo, perché dei telefoni ufficiali affermano la loro innocenza e non perdono occasione per gettare fango sulla famiglia. Una parte di quel fango è contenuto anche nell'articolo del Corriere della Sera, che fa il suo mestiere, che noi non critichiamo, ma comunque... Il fatto che lui fosse negli ultimi 2 anni un confidente dei carabinieri, come viene ventilato addirittura, è una panzana, io lo definisco una panzana perché negli ultimi 2 anni Stefano era in comunità, quindi non poteva essere certamente un confidente dei carabinieri. E anche dei cattivi rapporti con la sorella, tutto inventato, noi abbiamo foto, filmini dell'ultimo compleanno 10 giorni prima del suo arresto, dove c'era felice. Ma le posso fare una domanda rispetto a questi nuovi elementi che insomma sono terribili, però sono molto significativi rispetto alle tenebre di anni di indagini. Che prospettiva c'è dal punto di vista dei tempi e delle procedure per inoltrarsi finalmente anche dal punto di vista processuale in maniera diritta su questa nuova strada? Lei mi ha fatto una domanda perfetta. Il problema, ancora una volta, è un problema di periti e di medici legali. Allora, io voglio essere breve e sintetico, nel limite della possibilità. Questo processo è stato reso impossibile soprattutto da una serie di conclusioni e argomentazioni scientifiche che non sono, secondo me, assolutamente degne di questo nome, che hanno portato e indotto i giudici della Corte d'Assise d'Appello, sia pur contro gli imputati sbagliati, ad arrendersi addirittura riconoscendo che non era possibile sapere di che cosa fosse morto. Allora, noi ci siamo trovati un medico legale che ha fatto l'autopsia e che durante il processo abbiamo scoperto essere stato nominato consigliere di amministrazione di un gruppo assicurativo e le assicuro che io faccio questo mestiere da tanti anni e mi occupo di medicina legale da tanto tempo e non ho mai visto un medico legale consigliere di amministrazione di un grande gruppo amministrativo, perché il medico legale ovviamente fa il suo mestiere e non certamente sì. può essere un consigliere di amministrazione dell'assicurazione, visto che le assicurazioni sono sempre coinvolte chiaramente nell'attività professionale dei medici, in materia di responsabilità medica e di altro. Viene nominato in corso di processo insieme al figlio del signor La Russa, questo è a partire dagli atti del processo, anche di questa seconda indagine, che è negli atti, perché noi l'abbiamo sollevata la questione. Benissimo, adesso abbiamo un nuovo perito, il quale è capolista di La Russa, cioè io non è che ce l'ho con il signor La Russa, ma c'è una legge che impone che tutti... Capolista che vuol dire? Che vuol dire capolista? Si è presentato capolista, diciamo insieme alla Russa, alle elezioni del 2009, per la regione Puglia, e appartiene allo stesso partito della Russa. Ah. Già un medico legale che è impegnato attivamente in politica, dice qualcosa... lavorare per il giudice uh-huh. in un processo come questo, dove sappiamo che comunque quel partito, il signor La Russa, sì. diciamo, personalmente ha espresso quella posizione fin dall'inizio. Cioè, ma non vi piace, chiaramente, non è garanzia di imparzialità, secondo lei? Al di là di tutte le considerazioni che si possono fare, che adesso ne faremo oggetto di istanza, stiamo valutando mm-hmm. di accusazione o di sostituzione, ma al di là di questo, è chiaro che questo rende più difficile, perché, guardi, il problema è molto semplice. Tutta Italia sa, ma tutti i medici legali italiani sanno perfettamente, che Stefano Cucchi, se non fosse stato prestato, non sarebbe morto. Si fermi un attimo, avvocato. Cioè, io vorrei chiedere questo a Ilaria Cucchi. Di fatto, poi, sarà per il cover up a cui faceva riferimento Giannino, sarà perché le responsabilità non sono venute fuori all'inizio, sono state processate le persone della polizia penitenziaria che sono state poi assolte. Nei confronti loro, immagino che lei ha avuto sentimenti invece contrari a pensare che fossero colpevoli, che fossero loro i colpevoli della morte di suo fratello. E quindi adesso che dobbiamo dire? Cioè, si sente, glielo dico, anche un po' in colpa per questi anni in cui ha puntato il dito verso le persone sbagliate? Assolutamente no, chi si deve sentire in colpa non sono io. Al di là del fatto che queste persone, come tante altre persone, io le ritengo moralmente responsabili della morte di mio fratello, che abbiano partecipato o meno a quel pestaggio, comunque lo hanno visto. Io le dico una cosa, mio fratello in quei 6 giorni, che è un lasso di tempo brevissimo ma interminabile se penso a come li ha vissuti, ha avuto a che fare con tantissime persone, circa 140, li abbiamo contati, sono i testimoni del nostro processo, e sono tutte non persone comuni, ma rappresentanti delle istituzioni, tra cui anche questi 3 agenti. Bene, se una sola di quelle persone, compresi 3 agenti, avesse compiuto il suo dovere di pubblico ufficiale, cioè denunciare quello che aveva davanti agli occhi, mio fratello, chiaramente pestato, le cui condizioni andavano degenerando di ora in ora fino a portarlo al cadavere che ho visto io 6 giorni dopo, non avremmo fatto nessun processo per la morte di Stefano Cucchi, quindi io non devo chiedere scusa a nessuno, certo. Mi perdoni, ma potevano parlare prima. Quello che posso dire a queste 3 persone, sono passati 6 anni, meglio tardi che mai, magari potrebbero parlare adesso e raccontare tutto quello che sanno. Guardi, ci sono anche ascoltatori, per esempio ci chiama Andrea da Treviso. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno. Volevo dire innanzitutto, non parliamo ai comitati Parmalat, delle truffe bancarie che 12 anni facciamo, un'odissea noi contro la legge, contro il mai governo. Parliamo di questo fatto. Noi diciamo che questo paese è la catastrofe, diciamo che la droga sta devastando il paese, sì. sempre di più. Diciamo che le forze dell'ordine sono prese tra furti e rischiano la vita tutti i giorni, sotto stress continuamente. Io direi, ma la sorella, visto che fa questa battaglia, ha cominciato a passare un mese dentro la comunità a dare una mano a venire fuori, o proprio fa una battaglia così alla vista della gente? Io dico, bisogna avere responsabilità. Sa, fa forse una battaglia per capire chi ha ucciso suo fratello. Andrea, lei la farebbe una battaglia? Andrea, guardi, questo è il motivo per il quale io parlo per me, ma siamo insieme in questa trasmissione. Come giornalisti ci poniamo ogni volta il problema di chi la pensa come lei, e ogni volta ci prepariamo. E sono tanti, sono tanti come Ilaria sa sono bene. Tantissimi. Ogni volta sappiamo che dobbiamo prepararci con serenità e calma a spiegare che nel nostro mestiere c'è una componente tra le tante, oltre a valutare l'equilibrio tra i diversi poli di un paese, ma in un paese, nelle strutture di pubblica sicurezza e di giustizia, cioè in tutte le diverse fasi in cui si viene fermati, arrestati, poi indagati, poi detenuti, ecco, in nessuno di questi passaggi è tollerabile che possano avvenire atteggiamenti condotte tali da creare danni fino alla morte di un italiano, qualunque sia il motivo per cui ha a che fare con la giustizia, vero, presunto, accertato, e chiunque esso sia, e che a distanza di anni, ancora di fronte a delle coperture, vi è sbagliata la giustizia, eccetera, eccetera, questa vicenda, che è una vicenda che vale per tutto il sistema dell'ordine, della sicurezza e della giustizia italiana, sia in queste condizioni. E di questo, da operatori dell'informazione, senza volervi convincere, noi siamo convinti di fare il nostro mestiere, perché deve essere appurato con chiarezza assoluta cosa succede, perché altrimenti può riguardare, anche se voi torcete il muso e dite ma a me non riguarderà mai perché io non ho a che fare con la droga, non ho... io sono un cittadino per bene. Se non si sa cosa accade di un morto in quelle condizioni di fronte a polizia penitenziaria, carabiniere, eccetera eccetera, può capitare a chiunque. E allora bisogna sapere che bisogna dare giusto rilievo a chi si occupa caparbiamente perché la luce venga fatta. Ma poi l'accusa sotto traccia un po' più dura, se vuoi, ecco, Oscar, sì, è quella, con tutti i problemi che abbiamo, con tutti i problemi che abbiamo ci occupiamo di questo. È un, a parte che è un serio problema, è un problema. E noi ci occupiamo comunque. E poi ci siamo occupati degli altri, di banche di fino a un minuto fa. Che la vera tesi è: non perdete tempo, non occupatevene più. Questo è. E invece noi pensiamo che sia giusto occuparsi. In ogni caso, siamo quasi in chiusura. Avvocato Anselmo, ci racconti in 30 secondi cosa potrà succedere. Beh, il perito, quindi cosa fate? Lo ricusate? Sì. Lo ricusate. Sì, quindi? Stiamo valutando questo discorso, altrimenti non parteciperemo all'incidente probatorio. Detto questo, mi premeva rispondere anche quell'ascoltatore. Sì. La battaglia di Ilaria è una battaglia importante perché Stefano Cucchi era l'ultimo di fronte alla legge ed è una battaglia che serve a ribadire un principio sacrosanto che vale anche per i truffati delle banche, ai quali appartiene anche, categoria alla quale appartiene anche mio padre, e che la legge deve essere uguale per tutti. Questo è un principio di garanzia della democrazia di questo paese, molto più di quanto non si possa pensare. Quindi la legge deve essere uguale per tutti e chiunque sbagli, chiunque, deve essere chiamato ad affrontare le proprie responsabilità, e questo vale anche per i risparmiatori, ma anche sono per le persone. Assolutamente. Sono completamente. Ilaria, cosa si aspetta in definitiva da questo nuovo processo? Cioè ha fatto tra i tanti sogni quello di pensare ci sarà la verità, un giorno la scoprirò dalla A alla Z? Sì, io temo che la verità dalla A alla Z, cioè tutto, ma proprio tutto quello che è capitato al mio fratello, è una pretesa eccessiva, non lo sapremo mai. Esatto, però sì, sicuramente siamo in un momento importantissimo e di svolta, sicuramente siamo molto vicini alla verità e soprattutto sicuramente per la prima volta non mi sento sola con il mio avvocato a lottare contro tutto e tutto. Abbiamo la Procura di Roma al nostro fianco. Esatto, io questa è la differenza. Questa vigilia di Natale mi sento di essere positiva. Abbiamo avuto un anno importante alle spalle, abbiamo fatto cose enormi e continueremo a farle per Stefano e anche per tutti gli altri. Allora, tanto molto in bocca bene al lupo, ovviamente. Esatto. Buon Natale. Abbracci. Allora, noi... E adesso bisogna dire anche Buon Natale alla fine. Adesso sì, Buon Natale. Io però sì, volevo nominare l'ultimo regalino dello Stato, che ho pensato al vostro è bellissimo Natale. Questo, è bellissimo. Ho pensato questo al vostro Natale. Sentite bene, sentite la tassa bene sulle isole minori che raddoppia se c'è il vulcano. Sì, sembrano delle cose da Mascia e Orso. No, solo in Italia. È vero, se si sbarca sulle isole minori 2,50 euro. Ma c'è se vulcano, c'è un vulcano doppio. Ma perché il vulcano? Ma perché? Stato ma perché il vulcano? Perché questi regali di Natale? Oh, io torno il 7 gennaio. Ma tu continui, io Oscar, continuo, tutti i giorni. Farò impropriamente le veci. Saremo qui a contare le ore e a sperare che però tu e i tuoi abbiate un bel po' di sole, di bel mare, bene, che non ci siano blocchi di tronca. Che dove vai tu? Buon Natale a tutti. Ciao.